La recita. La stanza era calda e la luce della lampada brillava forte e chiara, ma Laura aveva le dita così intirizzite che faceva fatica ad abbottonare il corpino dell'abito azzurro e vedeva lo specchio appannato. Si stava vestendo per andare alla recita. Ci pensava da tanto tempo che quasi non sembrava più una cosa reale. Invece quel giorno era arrivato davvero e a lei, bene o male, toccava affrontarlo. Anche Carrie era spaventata. Con gli occhi spalancati nel visetto affilato, continuava a ripetere tra sé: con lo scalpello stava il piccolo scultore, mentre Laura le faceva il fiocco alle trecce. Mamma le aveva confezionato un vestito nuovo di stoffa scozzese apposta per quel giorno, perché anche lei doveva recitare davanti al pubblico. Ma ti prego, ti dico la poesia ancora una volta, disse Carrie. Non c'è tempo, Carrie. Non vorrai arrivare in ritardo. La sai alla perfezione, me la dirai per strada. Laura, sei pronta? Sì, disse Laura con un filo di voce. Mamma spense la lampada. Fuori soffiava un vento gelido che faceva correre folate di neve sul terreno gelato. Le gonne sbattevano, i cerchi della crinolina salivano lungo le gambe. Era una disperazione e certamente, si preoccupava Laura, il vento le avrebbe scompigliato i ricci sulla fronte. Cercava affannosamente di ricordare quello che doveva dire, ma non riusciva ad andare oltre. L'America fu scoperta da Cristoforo Colombo nel 1492. Colombo, originario di Genova, una città italiana. Accanto a lei, Carrie cantilenava: scultori di vita, noi siamo qua giù. Papà disse: che strano, anche la chiesa è tutta illuminata. Stavano dirigendosi alla scuola perché là doveva tenersi la recita, ma si vedeva una lunga fila di gente inframmezzata dagli aloni gialli delle lanterne che andava verso la chiesa. Che succede? Chiese papà. È venuta così tanta gente che nella scuola non ci si sta. Owen sta mandando tutti in chiesa, disse il signor Bradley, e aggiunse: ho sentito che questa sera sei di scena, Laura. Laura non seppe che cosa rispondere. Stava pensando: Cristoforo Colombo, originario di Genova, una città italiana. L'America fu scoperta da Cristoforo Colombo nel 1492. Cristoforo Colombo, originario. Doveva assolutamente superare quel punto. Sotto il portico della chiesa c'era una tale folla che Laura temette le schiacciassero i cerchi della crinolina. Oddio! E se perdevano la forma? E se si sciupava il vestito? Sugli attaccapanni non c'era più modo di appendere nulla. Dentro c'era gente ovunque. Si sentiva la voce del signor Owen che ripeteva: i primi banchi sono riservati agli alunni della scuola. Ragazzi, per cortesia, venite avanti. Mamma disse che i cappotti li prendeva lei. Aiutò Carrie a spogliarsi mentre Laura si levava il cappello e si tastava ansiosamente la frangia. Carrie, devi recitare come recitavi a casa, disse mamma rassettandole l'abito. La sai alla perfezione la tua poesia. Sì, ma, mormorò Carrie. Laura non riusciva a dire una parola. Aveva la gola secca e la testa annebbiata. Guidò Carrie giù per il corridoio tra la gente che cercava un posto dove sedersi. Lei le si strinse contro con uno sguardo spaventato, implorante. Sono a posto, le trecce. Laura le tirò indietro una ciocca che le era cascata sulla fronte. La scriminatura le divideva i capelli biondi in due bande lisce e ordinate, che finivano in due treccine rigide sulla schiena. Ecco, ora sei proprio bella, disse, e come ti sta bene il vestito nuovo. Si stupì che la voce le fosse uscita così pacata e tranquilla, quasi non sembrava la sua. Carrie si illuminò e, passando davanti al signor Owen, andò a sedersi coi compagni della sua classe nel primo banco. Il signor Owen disse a Laura: appendiamo i ritratti dei presidenti come avremmo fatto a scuola. Sul pulpito c'è la bacchetta. Quando arrivi a George Washington, comincia a indicarli con la bacchetta, via via che ne parli. Questo ti aiuterà anche a ricordare l'ordine giusto. Sì, signore, mormorò Laura. Da quelle parole aveva capito che anche il signor Owen era un po' preoccupato. Di tutti gli allievi, lei era quella che non doveva sbagliare perché aveva la parte più lunga e impegnativa. Te l'ha detto della bacchetta? Le sussurrò Aida quando Laura le si sedette accanto. Aida sembrava una copia smunta e sbiadita della ragazza che era di solito. Laura annuì, osservando Cap e Ben, che stavano appendendo i ritratti dei presidenti sulle pareti di tavole. Tramontante e l'altro. Il pulpito era stato spostato verso il fondo della chiesa per lasciare libera la predella. La bacchetta era là. Tu farai un figurone, lo so, ma io sto morendo di paura, disse Aida. Ti passerà quando sarai lì. La storia è il nostro forte, lo sai. È molto più facile che fare calcoli a mente, che pure ci toccano. Sì, ma meno male che la prima parte tocca a te. Io non ce la farei mai. Laura era stata contenta della parte assegnatale perché era quella che le piaceva di più, ma adesso aveva solo una gran confusione in testa. Cercava inutilmente di mettere un po' d'ordine, ma ormai era tardi, doveva farcela, guai se avesse sbagliato. Signori, silenzio per cortesia, disse il signor Owen. La recita era cominciata. Nellie Olleson, Mary Power, Minnie, Laura, Aida, Cap, Ben e Arthur si schierarono sulla predella. Arthur aveva un paio di scarpe nuove e una scricchiolava orrendamente. La chiesa era piena all'inverosimile. Avevano tutti gli occhi puntati addosso, ma Laura vedeva solo una grande macchia sfocata. E il signor Owen cominciò un fuoco di fila di domande e improvvisamente Laura si accorse di non avere paura. Aveva solo la strana sensazione di non essere lei, quella ragazza con l'abito della festa, lì in piedi davanti a tanta gente a rispondere alle domande di geografia. Certo, sì, sarebbe vergognata molto se avesse sbagliato qualcosa e le sarebbe dispiaciuto per papà e mamma, ma non era spaventata. Era un po' come un sogno, quando sogni che stai per svegliarti. Rispondeva alle domande e intanto la sua testa continuava a ripetere: l'America fu scoperta da Cristoforo Colombo. Le domande di geografia finirono e lei non ne aveva sbagliata neppure una. Il pubblico applaudì. Poi passarono alla grammatica e qui era più complicato perché non c'era la lavagna. Non è difficile separare ogni parola e ogni pezzo di frase, anche di un periodo lungo e complesso, tutto pieno di subordinate, se ce l'hai scritto davanti agli occhi. Non è altrettanto facile quando devi tenere tutto a mente e non dimenticare non solo nessuna parola, ma nemmeno una virgola. Ma solo Nelly e Arthur fecero qualche errore. La parte di aritmetica era ancora più difficile. Era una materia che Laura detestava. Quando venne il suo turno aveva il cuore che batteva all'impazzata. Era sicura di sbagliare. Invece, con sua sorpresa, sentì la propria voce recitare con scioltezza, senza intoppi, perfino le operazioni più complicate. 347.264 diviso 16. Il 16 nel 34 sta due volte, scrivo 2 e riporto 2. Il 16 nel 27 sta una volta, scrivo 1 e riporto 11. Il 16 nel 112 sta 7 volte, scrivo 7 e riporto 0. Il 16 nel 6 non ci sta, scrivo 0. Il 16 nel 64 sta 4 volte, scrivo 4. 347.274 diviso 16 fa 21.704. Non ebbe bisogno di fare la moltiplicazione di verifica, sapeva di aver fatto giusto perché il signor Owen era passato a un'altra domanda. Alla fine disse: andate a posto. Nel fragore degli applausi scesero uno dopo l'altro dalla predella del pulpito e tornarono a sedersi. Ora toccava ai più piccoli, poi sarebbe venuto il turno di Laura. I bambini furono chiamati uno alla volta a recitare la loro parte. Laura e Aida quasi non se ne accorsero, tanto erano in tensione. Nella testa di Laura rotolava in un guazzabuglio spaventoso tutta la storia dell'America. L'America fu scoperta, il congresso delle colonie confederate in Filadelfia riunito, c'è una sola parola in questa petizione che disapprovo ed è la parola congresso. Benjamin Harrison si alzò in piedi e disse: c'è una sola parola in questa petizione che approvo ed è la parola congresso. E Giorgio III e tragga profitto dal loro esempio. Se questo è tradimento, signori, traete nel massimo. Datemi la libertà o la morte. Riteniamo queste verità evidenti di per sé. I loro piedi lasciarono impronte di sangue sulla neve. A un tratto Laura sentì il signor Owen chiamare: Carrie Ingalls. Pallida e tesa, Carrie si avviò verso la predella. Aveva tutti i bottoni dell'abito nuovo abbottonati al contrario. Perché non li ho controllati? Si disse Laura. Come aveva potuto lasciare la piccola ad arrangiarsi da sola? Dritta sulla predella, con le mani dietro la schiena e gli occhi fissi sulla folla, Carrie cominciò a recitare con voce chiara e dolce. Con lo scalpello stava il piccolo scultore dinanzi al marmo bianco, e il volto gli brillava di gioia celestiale che un angelo passava qual sogno su di lui. Con gesti decisi, sulla pietra tenace, quel sogno scolpiva, e in cielo fu accolto circonfuso di luce che il sogno aveva colto, che noi tutti conduce. Scultori di vita noi siamo quaggiù. Qual blocco di marmo la vita ci aspetta, e al cenno di Dio stiamo pronti a scolpirla con gesti decisi nella pietra tenace. La grazia del cielo a noi sarà data se quella visione avremo afferrata. Non aveva avuto la minima esitazione, non aveva sbagliato una parola. Laura era orgogliosa di lei, sorridente, felice, che ritornò a sedersi al suo posto mentre scrosciavano gli applausi. Il signor Owen disse: «E ora ascolteremo la storia del nostro paese dalla scoperta fino ai giorni odierni, dalla voce di Laura Ingalls e Ida Brown. Comincia tu, Laura!» Ora toccava a lei. Laura non seppe mai come aveva fatto ad arrivare fin là. Si trovò sulla predella e sentì la sua voce cominciare. L'America fu scoperta da Cristoforo Colombo nel 1492. Cristoforo Colombo, originario della città di Genova, in Italia, da tempo chiedeva che gli consentissero di navigare verso ovest per cercare una nuova via di accesso alle Indie. A quell'epoca la Spagna era governata dalle due corone congiunte di... La voce le tremava un po', riprese fiato e continuò più tranquilla. Non le sembrava vero di essere lì sulla predella, con il suo abito azzurro allargato dai cerchi della crinolina, la spilla con la perla di mamma, a chiudere la cascata di pizzo sotto il mento e la frangia appiccicata dal sudore sulla fronte. Parlò degli esploratori spagnoli e francesi, degli insediamenti che avevano fondato, della colonia perduta di Sir Raleigh, delle compagnie commerciali britanniche in Virginia e Massachusetts, dell'acquisto di Manhattan da parte degli olandesi e del loro insediamento nella valle dell'Hudson. All'inizio parlava a una macchia indistinta. Poi a poco cominciò a distinguere i volti. Quello di papà spiccava tra tutti. I loro occhi si incontrarono e papà le fece un lieve, lento cenno di assenso con la testa, ammiccando. Da quel momento Laura non ebbe più esitazioni, entrò nel vivo della grande storia d'America. Disse della nuova visione di libertà e uguaglianza fiorita nel nuovo mondo, dell'antica oppressione in Europa, della guerra contro la tirannia e il dispotismo, della guerra d'indipendenza dei 13 nuovi stati e di come quegli stati avessero scritto la Costituzione e si fossero uniti. Poi, prendendo la bacchetta, indicò George Washington. Il pubblico ascoltava in silenzio, non si sentiva nessun rumore. Con voce limpida, Laura parlò dell'infanzia disagiata di Washington, del suo lavoro di agrimensore, della sconfitta subita a Fort Duquesne per mano dei francesi e dei lunghi, duri anni di guerra che erano seguiti. Disse come era stato eletto all'unanimità primo presidente e padre del paese e delle leggi emanate dal primo congresso e dal secondo congresso, e ancora dell'apertura del territorio di Nord-Ovest. Poi, dopo John Adams, era venuto Jefferson, che aveva scritto la dichiarazione di indipendenza, sancito la libertà di religione e la proprietà privata in Virginia, fondato l'Università della Virginia e acquistato per il nuovo paese tutto il territorio tra il Mississippi e la California. Dopo di lui c'era stato Madison, la guerra del 1812, l'invasione, la sconfitta, l'incendio del Campidoglio e della Casa Bianca a Washington, le valorose battaglie combattute per mare dai marinai americani sulle poche navi americane e infine la vittoria che aveva sancito l'indipendenza. Poi era venuto Monroe, che aveva osato dire a tutte le nazioni più vecchie e più forti e ai loro tiranni di non azzardarsi più a invadere il Nuovo Mondo. Andrew Jackson era partito dal Tennessee, aveva battuto gli spagnoli e conquistato la Florida. Poi gli Stati Uniti, nella loro onestà, l'avevano acquistata dalla Spagna. Nel 1820 erano venuti i tempi duri, tutte le banche erano fallite, i commerci erano cessati, la gente era rimasta senza lavoro e aveva fatto la fame. Poi Laura indicò John Quincy Adams. Raccontò della sua elezione, spiegò che anche i messicani avevano combattuto una guerra di indipendenza e l'avevano vinta, sicché ora si erano conquistati il diritto di commerciare con chi volevano. Così dunque, dal Missouri, attraverso mille miglia di deserto, era stata aperta la Santa Fe Trail, l'itinerario che per anni aveva consentito all'America di commerciare col Messico. E poi i primi carri di pionieri erano arrivati in Kansas. Aveva finito. Ora toccava a Aida raccontare il resto. Posò la bacchetta e si inchinò davanti alla folla. Scoppiò un applauso che la fece sobbalzare. Manco poco che cascasse in terra dallo spavento. Il fragore era tale che le parve quasi di doverlo fendere come una muraglia tangibile quando tornò al suo posto e si lasciò cadere accanto a Aida. Non diminuì nemmeno quando si fu seduta. Alla fine il signor Owen dovette chiedere silenzio. Laura tremava da capo a piedi. Avrebbe voluto dire una parola di incoraggiamento a Aida, ma non ebbe la forza. Non poté fare altro che restare lì, seduta, stremata, ma felice che finalmente fosse tutto finito. Aida anche se la cavò egregiamente, non fece errori e anche lei fu salutata alla fine con un lungo applauso caloroso. Dopo che il signor Owen ebbe congedato il pubblico, ci volle un pezzo perché la gente uscisse dalla chiesa. Si erano fermati tutti tra i banchi a chiacchierare e a commentare la serata. Il signor Owen aveva l'aria soddisfatta. Beh, scricciolo, ti sei comportata molto bene, disse papà, quando Laura e Carrie finalmente riuscirono a raggiungerlo. E anche tu, Carrie. Sì, disse mamma, sono molto orgogliosa di voi. Mi sono ricordata tutto, disse Carrie raggiante, ma sono contenta che sia finito. Uff, anch'io, disse Laura, cercando la manica del cappotto. In quel momento sentì una mano sollevarlo dal collo per aiutarla a infilarlo. Una voce disse: Buonasera, signor Ingalls. Laura alzò gli occhi e si trovò a fissare al manzo Wilder. Lui non disse nulla, neanche Laura disse nulla finché non furono fuori. Davanti a loro, sulla strada innevata, ondeggiava la lanterna di papà. Il vento era cessato, l'aria era fredda e quieta e la neve brillava al chiaro di luna. Poi al manzo disse: Avrei dovuto chiedere se posso accompagnarla a casa. Sì, disse Laura, ma lo sta facendo comunque. E c'era così tanta gente, una mischia, disse lui a mo' di spiegazione, poi chiese: Posso accompagnarla a casa? Laura scoppiò a ridere e anche lui rise. Sì, disse Laura. E di nuovo si chiese perché lo faceva, considerato quanto era più vecchio di lei. Il signor Bost o qualunque altro amico di papà l'avrebbe accompagnata a casa se papà non fosse stato con lei, ma papà era lì davanti. Poi pensò che lui aveva una risata simpatica. Sembrava che tutto lo divertisse. Doveva aver lasciato i cavalli in Main Street. Ecco perché andava da quella parte. Li ha lasciati in Main Street i suoi cavalli? Chiese Laura. No, disse lui, sono sul lato sud della chiesa, al riparo dal vento. Poi aggiunse, sto costruendo una slitta. Qualcosa, nel modo in cui l'aveva detto, suscitò una speranza folle nel cuore di Laura. Che meraviglia doveva essere correre su una slitta trainata da cavalli così veloci. Ma no, lui non aveva certo intenzione di invitarla. Tuttavia, Laura si sentì quasi girare la testa. Se tiene, questa neve sarà perfetta per le slitte, disse lui. Sembra che si preannunci un altro inverno mite. Sì, proprio così, non è vero? Rispose Laura. No. Ora era sicura che non l'avrebbe invitata. Ci vuole del tempo per costruirla a regola d'arte, disse lui, e poi devo verniciarla. Due mani. Non sarà pronta che per dopo Natale. Le piace andare in slitta? Laura si sentì quasi soffocare. Non lo so, rispose, non ho mai provato. Poi si fece coraggio e aggiunse, ma sono sicura che mi piacerebbe, sì. Bene, disse lui. Allora un giorno in gennaio vengo con la slitta. Magari le fa piacere provare. O un sabato, le andrebbe? Oh sì, certo, esclamò Laura. Grazie. Benissimo, facciamo tra 2 settimane se il tempo tiene. Erano arrivati alla porta. Lui si levò il berretto e le augurò la buonanotte. Laura volò in casa. Pa, ma, pensate, il signor Wilder sta costruendo una slitta e ha detto che mi porta a fare una corsa. Papà e mamma si scambiarono un'occhiata. Erano tutti e due molto seri. Laura aggiunse subito: Se posso andare, naturalmente. Posso, per piacere. Ci penseremo, Laura, quando sarà il momento, rispose mamma. Ma lo sguardo di papà era dolce e affettuoso e Laura seppe che quando fosse venuto il momento l'avrebbe lasciata andare. Che gioia doveva essere filare nell'aria fredda in una giornata di sole dietro quei due cavalli. E non poté trattenersi dal pensare felice. Oh, che rabbia farà a Nellie Olison. Sorpresa in dicembre. Il giorno dopo parve vuoto e triste. Non volevano fare di nuovo Natale senza Mary. C'erano regali solo per Carrie e Grace. E anche se Natale era di lì a 2 giorni, quel mattino avevano aperto lo stesso la piccola scatola che era arrivata da parte di Mary. La scuola era chiusa per tutta la settimana. Laura sapeva che avrebbe dovuto sfruttare il tempo per studiare, ma non riusciva a concentrarsi. Non c'è nessun gusto senza Mary, continuava a ripetere. Avevano finito di pranzare, di rigovernare, ma la casa sembrava vuota. Laura continuava a guardarsi attorno come a cercare qualcosa che aveva perso. Mamma posò il bollettino della chiesa. Davvero, anch'io non riesco proprio ad abituarmi al fatto che non sia più qui con noi. Questo articolo di un missionario è interessante, ma mi ero così abituata a leggere a voce alta per Mary che non riesco più a leggere solo per me. Oh, vorrei che non fosse andata via, esclamò Laura, ma mamma osservò che non doveva dire così. Mary è brava all'università ed è stupefacente quante cose sta imparando: cucire a macchina, suonare l'organo, fare quei bei mosaici di perline. Lanciarono tutte e due un'occhiata al vasetto fatto di minuscole perline infilate su un supporto di filo di ferro che Mary aveva mandato come regalo di Natale per tutti loro. Lo avevano messo sulla scrivania. Laura andò a contemplarlo da vicino e tastò la frangia di perline che cingeva l'imboccatura. Sono un po' preoccupata, disse mamma. Non so come faremo a trovare i soldi per gli abiti d'estate di cui ha bisogno e anche per mandarle una piccola somma per le sue necessità. Ormai dovrebbe avere una tavoletta per l'alfabeto Braille, ma sono oggetti costosi. Tra 2 mesi compio 16 anni, disse Laura. Magari riesco a prendere l'abilitazione entro l'estate. Se potrà insegnare per un trimestre l'anno prossimo, magari riusciremo a farla venire a casa per le vacanze estive, disse mamma. Ormai è via da tanto tempo, le farebbe bene tornare per un po', e ci sarebbe solo da spendere per il biglietto del treno, ma non bisogna vendere la pelle dell'orso anzitempo. Comunque è meglio che mi metta a studiare, disse Laura con un sospiro. E pensando a Mary che aveva avuto la pazienza di infilare quelle minuscole perline, con tutto che era cieca, solo per mandare a casa un vasetto in regalo, si vergognò della sua pigrizia e del malumore che aveva addosso. Mamma riprese il giornale e Laura si chinò sui libri, ma non riusciva a scuotersi il torpore di dosso. Carrie, che guardava dalla finestra, annunciò: «Arriva il signor Boast e c'è un altro signore con lui». Sono loro che picchiano alla porta. Che bussano alla porta, disse mamma. Laura aprì e il signor Boast entrò dicendo: Salve a tutti, come va? Questo è il signor Brewster. Dalle scarpe, dal giaccone, dalle mani si capiva che il signor Brewster era un colono, non parlava molto. Piacere, disse mamma, facendo cenno che si sedessero. Mio marito è da qualche parte in paese. Come sta la signora Boast? Mi spiace che non sia venuta anche lei. Non pensavo di passare, disse il signor Boast. Siamo venuti per parlare con la signorina qui, aggiunse con un sorriso rivolto a Laura. Laura trattenne il fiato. Sedeva con la schiena ben dritta, come le era stato insegnato, le mani in grembo e i piedi raccolti sotto la gonna. Non lo dava a vedere, ma era stupita. Che cosa mai poteva volere il signor Boast da lei? Liu Brewster, il mio amico qui, sta cercando una maestra per la scuola che hanno intenzione di aprire nel loro distretto, continuò il signor Boast. È venuto alla recita ieri sera. Pensa che Laura sia la persona che stanno cercando e io gli ho detto che non potrebbero trovare di meglio. Laura ebbe un tuffo al cuore. Non ho ancora l'età, disse. Su, Laura, disse il signor Boast tutto serio. Non c'è bisogno di dire la tua età finché non te la chiedono. La domanda è: se il sovrintendente della contea ti dà l'abilitazione, ci vai a insegnare in questa scuola? Laura era senza parole, guardò mamma e le chiese: Dov'è la scuola, signor Brewster? 12 miglia a sud di qui. Laura si sentì mancare, così lontana da casa, in mezzo a gente strana. Sarebbe stata sola, non avrebbe potuto contare su nessun altro che se stessa e non sarebbe potuta venire a casa fino alla fine del trimestre. 12 miglia era troppo lontano per andare e venire tutti i giorni. È un piccolo insediamento, continuò il signor Brewster. Il territorio intorno non è ancora pienamente colonizzato. Non possiamo permetterci più di 2 mesi di scuola e non possiamo spendere più di $20 oltre a vitto e alloggio. È una somma ragionevole, disse mamma. Fa $40, pensava Laura. $40! Non immaginava di poter guadagnare tanto denaro. Non dubito che mio marito terrà in considerazione il suo parere, signor Bost, disse mamma. Liu Brewster e io ci conosciamo da quando eravamo ancora all'est, tutti e due, disse il signor Bost. È un'ottima occasione per Laura, se ha voglia di provare. Laura era così emozionata da non riuscire quasi a spiccicare parola. Sì, certo, balbettò. Sarei molto contenta se posso farlo. Allora, sbrighiamoci, disse il signor Bost alzandosi. Williams è qui in paese. Se lo intercettiamo prima che se ne torni a casa, può venire qui e fai subito l'esame. Salutarono e scapparono via. Ma, mormorò Laura, ma lo passerò l'esame. Penso proprio di sì, Laura, rispose mamma. Basta non farsi prendere dall'emozione o dalla paura. Non c'è motivo. Fai finta che sia una normale interrogazione a scuola e vedrai che andrà tutto bene. Un attimo dopo, Carrie esclamò: Eccoli che arrivano! Ora picchiano alla porta. Bussano, Carrie, disse mamma con un tono leggermente più brusco del solito. Bussano alla porta. Sono usciti dal ferramenta di Fuller. Dalla ferramenta, disse mamma. Dalla ferramenta. Mamma andò ad aprire. Entrò un signore alto con la faccia simpatica e modi gradevoli. Si presentò come Williams, sovrintendente scolastico della contea. Dunque, è questa la signorina che vuole l'abilitazione? Disse a Laura. Non c'è bisogno di fare un vero esame. L'ho sentita ieri sera. Ha risposto a tutte le domande senza fare errori. Ma vedo la sua lavagna sul tavolo. Magari vediamo un paio di cosette. Andarono a sedersi al tavolo. Laura fece qualche calcolo, rispose a domande di geografia, fece lo spelling di diverse parole difficili, lesse il discorso di Marco Antonio alla morte di Cesare. Si sentiva a proprio agio col signor Williams. Infine fece l'analisi grammaticale e logica di qualche frase. Scalando quel monte, io vidi un'aquila volteggiare lassù, presso la sua alta fronte. Io, pronome personale, prima persona singolare. Qui è soggetto di vidi, passato remoto, prima persona singolare del verbo transitivo vedere. Vidi ha come complemento oggetto il nome comune aquila, qui preceduto dall'articolo indeterminativo una. Scalando quel monte, frase temporale implicita. Scalando è il gerundio del verbo transitivo scalare che qui ha il complemento oggetto. Bastarono poche frasi e il signor Williams si dichiarò soddisfatto. Non c'è nessun bisogno di fare anche l'esame di storia. L'ho sentita parlare ieri sera. Dovrò segnare dei voti non molto alti, perché fino all'anno prossimo non posso darle un'abilitazione superiore alla terza classe. Posso usare penna e inchiostro? Si accomodi alla scrivania, disse mamma. E il signor Williams sedette alla scrivania di papà e tirò fuori un diploma con gli spazi in bianco. Per qualche minuto non ci fu altro rumore che il fruscio della manica sul foglio mentre scriveva. Poi asciugò il pennino, chiuse la bottiglietta dell'inchiostro e si alzò. Ecco qua, signorina Ingalls. Brewster mi ha detto di comunicarle che la scuola apre lunedì prossimo. Verrà a prenderla sabato o domenica, a seconda del tempo, e al corrente del fatto che la scuola si trova a 12 miglia a sud del paese? Sì, signore, il signor Brewster l'ha detto. Bene, le auguro buona fortuna, disse lui cordialmente. Quando fu uscito, mamma e Laura lessero il diploma. Dipartimento dell'istruzione, Dakota, contea di Kingsbury. Abilitazione magistrale. Si certifica che la signorina Laura Ingalls ha passato in mia presenza gli esami di abilitazione all'insegnamento delle seguenti discipline: lettura, ortografia, scrittura, aritmetica, geografia, grammatica e storia. E avendo altresì dimostrato di possedere buon carattere e saldi requisiti morali, viene abilitata con questo diploma di terza classe all'insegnamento delle suddette discipline in ogni scuola elementare del paese per un periodo di 12 mesi. AD 24 dicembre 1882. Firmato Sovrintendente della Contea di Bingsbury, Dakota, signor A. Williams. Voti riportati. Lettura 62, scrittura 75, storia 98, grammatica 81, aritmetica 80, geografia 85. Quando papà tornò a casa, Laura era ancora in mezzo alla stanza col diploma in mano. Che c'è, Laura? Chiese. Pensi che quel foglio debba saltare su e morderti? Pa, disse Laura, ho l'abilitazione. Ma come? Esclamò papà. Caroline, ma che succede? Guarda! Laura gli porse il diploma e andò a sedersi e non mi ha neanche chiesto quanti anni ho. Quando ebbe letto il diploma da cima a fondo e mamma gli ebbe spiegato che cos'era successo, papà esclamò: roba da matti! Andò a sedersi anche lui e rilesse il diploma. Niente male, disse poi, davvero niente male per una ragazza di 15 anni. Voleva suonare allegro, ma gli uscì una voce strana, un po' sorda, perché ora anche Laura sarebbe andata via di casa. Laura non riusciva a figurarsi come poteva essere fare la maestra a 12 miglia da casa, sola in mezzo a sconosciuti, ma meno ci pensava, meglio era, perché ormai tutto era stabilito. Le sarebbe toccato affrontare quello che c'era da affrontare. Ora Mary potrà avere tutto quello che le serve e potrà venire a casa quest'estate, disse. Oh, pa, credi che io sia capace di fare la maestra? Certo, Laura, disse papà, ne sono sicuro. Fine.